Cari amici di Comunicare il Sorriso di Dio, oggi abbiamo il piacere di avere in studio qui con noi due ospiti molto speciali. Ve li presento subito, sono Franci Fragola e Bob Broccolo. Ci parleranno della loro relazione e di una tecnica che utilizzano per essere sempre certi di comprendersi a vicenda. Una volta avevo un gruppo parrocchiale di ragazzi in cui tutti quanti avevano il desiderio di parlare e di dire la propria, per cui spesso si parlavano anche addosso l'uno all'altro, al che è stato proprio uno di loro che ha fatto questa proposta e ha detto: potremmo usare un pallone. Chi avrà in mano questo pallone potrà parlare e tutti gli altri dovranno stare in silenzio ad ascoltarlo. Poi, quando avrà finito, potrà passare il pallone ad un'altra persona e a quel punto sarà lui a poter parlare e gli altri dovranno ascoltare. È proprio così. A volte siamo così desiderosi di dire la nostra che ci può capitare molto spesso di interrompere una persona quando ancora sta parlando. Ma in realtà ci sono ostacoli ben più grandi che possono impedire una vera e fruttuosa comunicazione. Di uno di questi parla Carl Rogers in un famosissimo articolo del 1951, e cioè la tendenza a valutare ciò che l'altro sta dicendo, le parole che sta usando e in ultima analisi la tendenza a valutare, a giudicare proprio la persona con la quale in quel momento siamo in rapporto. È una cosa abbastanza naturale, ma può diventare un vero e proprio problema per la comunicazione laddove ci sono in gioco emozioni particolarmente forti, intense. Pensiamo ad esempio al rapporto di due persone in cui a un certo punto una delle due si sente giudicata dall'altra. Pensiamo quanto questo possa influire sulla qualità della comunicazione. Oppure pensiamo ad un rapporto di coppia in cui capita abbastanza spesso che magari si parte da un problema pratico, concreto e si arriva poi a mettere in discussione addirittura l'intero rapporto. Non è un caso che Carl Rogers, proprio in quell'articolo di cui vi parlavo prima, faccia un esempio proprio a partire dalla vita di coppia, ma non solo, e suggerendo in particolare un esercizio da applicare subito nella comunicazione interpersonale, un esercizio apparentemente molto facile, ma in realtà estremamente difficile. L'esercizio è quello in cui si cimentano spesso Franci Fragola e Bob Broccolo. Succede così: Franci sta parlando a Bob di una cosa e Bob l'ascolta con attenzione e non può parlare prima che Franci non ha smesso di parlare. A quel punto, che cosa dovrà fare Bob Broccolo? Prima di dire la propria, dovrà dire a Franci quello che ha capito di quello che ha detto Franci, non soltanto quello che ha detto, ma anche le sue sensazioni, come sta vivendo quello che Franci gli ha appena raccontato. Infine, Bob dovrà essere sicuro che Franci gli dica sì. Veramente, Bob, adesso hai capito proprio quello che intendevo dire. Soltanto a quel punto Bob potrà dire la sua a Franci, la quale, dopo aver ascoltato, prima di ribattere nuovamente, di interloquire, dovrà a sua volta spiegare a Bob quello che ha capito, dovrà dirgli le sensazioni che Bob gli ha trasmesso e a quel punto anche Bob dovrà confermarle: sì, è proprio questo, Franci, quello che intendevo. E così il dialogo va avanti. Non può proseguire finché non c'è una estrema comprensione reciproca di quello che l'altro ha appena detto. Perché tutto questo? Direte, forse è un pochino complicato questo metodo. E invece sentite un po', non è proprio vero che spesso Franci e Bob, così come noi con il nostro amico, con il nostro partner, la nostra partner, non riusciamo a capirci proprio perché non abbiamo veramente assimilato fino in fondo il quadro di riferimento dell'altra persona, non solo quello che sta dicendo, ma anche quello che sta sentendo, quello che sta provando nel profondo. Questa tecnica permette a Franci e a Bob di essere nella reciproca certezza che prima di parlare l'altro ha veramente compreso fino in fondo quello che l'altro stava dicendo. Quante volte noi parliamo e non abbiamo l'impressione di essere veramente compresi? Oppure a nostra volta rispondiamo, però dentro di noi sappiamo che in fondo stiamo dicendo la nostra senza aver capito veramente nel profondo quello che l'altro stava dicendo. Se non si arriva a questa certezza reciproca che l'altro mi ha capito prima di continuare la discussione, ma come potrà questa discussione progredire in positivo? Quando invece ci si sente capiti, reciprocamente capiti, non giudicati, ma soltanto capiti, allora facilmente cadranno anche quelle barriere sia difensive sia offensive che spesso impediscono proprio alle persone di capirsi ulteriormente e di far progredire la relazione in modo positivo. Calando le difese finalmente potrà instaurarsi un clima amichevole, favorevole ad una buona comunicazione e così il terreno sarà pronto per queste tre cose. Uno, i due potranno capire pienamente e profondamente il problema di cui stanno discutendo. Due, saranno portati a cercarne insieme le soluzioni. Tre, quando anche si rendessero conto che è difficile arrivare ad una soluzione condivisa, forse riusciranno in modo più semplice ad accettare questa situazione. Invece di valutare e di giudicare, questo esercizio ci insegna a capire, riformulare e assicurarsi che l'altro si sia sentito capito. In fondo credo che non sia molto diverso da quello che raccomandava sempre Gesù. Non giudicate per non essere giudicati, a cui possiamo anche aggiungere comprendete per essere compresi.